perfetto giorno. Una buona giornata da Laura Bettini, una buona giornata a tutti gli ascoltatori. In regia abbiamo Carmelo Lauricella, in assistenza Claudia Schiattone, li ringrazio già all'inizio di questa puntata. Puntata ovviamente che sarà in gran parte dedicata all'emergenza coronavirus che tutti noi stiamo vivendo in Italia. Ed ecco i titoli della giornata. Nuove misure allo studio per fermare il contagio, la politica sia unita, dice il presidente della Camera, ma intanto arriva l'esercito. La prefettura di Milano ha annunciato infatti che saranno impiegate 114 unità di militari dell'esercito di Strade Sicure. Le vittime in Italia superano quelle cinesi, in Lombardia la situazione è critica, aumentano i casi al sud però anche e molti contagi sarebbero dovuti ai fuorisede che sono tornati nei giorni scorsi a casa dal nord Italia. Tanto che il Policlinico di Bari si prepara a fronteggiare le emergenze e allestisce reparti ad hoc. La crescita italiana intanto va verso un meno 8% secondo il centro ricerche REF. Nel mondo aumentano i contagi, Spagna ormai siamo a 1000 morti, aumenta comunque anche la ricerca sui vaccini, mentre a Wuhan non risulta alcun nuovo caso. Alle 11 tutte le radio italiane si sono fermate per trasmettere insieme l'inno di Mameli e poi alcuni dei grandi successi italiani di sempre anche qui su Radio 24. E infine si guarda avanti, si guarda alle Olimpiadi che ancora dovrebbero tenersi a Tokyo quest'anno, la cerimonia ridotta per la fiamma olimpica che è arrivata in Giappone, una pattuglia acrobatica ha colto il volo speciale dalla Grecia. E allora cominciamo, come dicevamo ci sono nuove misure allo studio per fermare il contagio, è arrivato l'avviso della Prefettura di Milano che ha annunciato che saranno impiegate unità di militari dell'esercito di Strade Sicure per sorvegliare sul rispetto del decreto. Un nuovo caso di contagio oggi è stato registrato a Vo' Euganeo, che è il primo focolaio di coronavirus in Veneto dopo giorni in cui il bilancio segnava zero. E invece si sono registrati casi nuovi a Roma e ai Castelli Romani tra due istituti di suore per un totale di 59 casi positivi. Facciamo il punto della situazione in questo servizio. La ricetta medica via email, sms o telefonicamente senza bisogno di ritirarla più dal medico è una delle nuove misure per ridurre la circolazione di persone ancora troppo alta. All'esame del governo anche altre restrizioni, come la riduzione dell'orario dei supermercati con la possibile chiusura la domenica, la limitazione per le attività sportive all'aperto, il divieto di spostamento tra domicilio e residenza per evitare fughe nelle seconde case. Il governatore della Lombardia, Fontana, insiste per una stretta ulteriore con la chiusura degli uffici pubblici, salvo attività indifferibili, il fermo dei cantieri e l'impiego massiccio dell'esercito in strada per far rispettare le regole. Quanto alla scuola, che non riaprirà il 3 aprile, si pensa ad una possibile riapertura il 3 maggio, ma ci si prepara anche all'ipotesi più estrema, quella che gli studenti non rientrino fino alla fine dell'anno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed entriamo nel dettaglio della possibilità che l'esercito sia in campo contro il virus. Aumentare la presenza di militari in strada per potenziare i controlli, a chiederlo al governo e ai prefetti sono diversi amministratori locali, dal governatore della Lombardia ai sindaci di Verona e Civitavecchia, preoccupati per le troppe persone ancora in giro e per il numero di violazioni delle misure sugli spostamenti previste dal decreto anticoronavirus. Il ministro della Difesa Guerini ha dato piena disponibilità alla ministra dell'Interno Lamorgese all'utilizzo dei 7.000 uomini impegnati nella missione Strade Sicure, il cui numero potrebbe essere aumentato. Il loro impiego verrà stabilito sulla base delle esigenze territoriali individuate dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza. A Milano oggi la prefettura ha deciso di schierare nei controlli 114 militari dell'esercito dopo le richieste dei rispettivi governatori. In Campania è invece in arrivo un nuovo contingente di un centinaio di militari, mentre in Sicilia una parte dei militari già in servizio nell'isola verrà impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso andiamo nel dettaglio di quanto succede in Lombardia. Operativo l'ospedale da campo donato a Cremona da un'organizzazione umanitaria cristiana, primo in Italia per ospitare i pazienti colpiti da coronavirus, è stato allestito davanti a quello di Cremona con 60 posti letto, di cui 8 di terapia intensiva e 60 tra medici e infermieri al lavoro. Sbloccata anche la realizzazione dell'ospedale da campo di Bergamo, la cui apertura era stata sospesa per mancanza di medici. Ora l'ospedale si farà, abbiamo recuperato un gruppo di medici che potranno renderlo operativo, ha detto il governatore lombardo Fontana. Sono le buone notizie in un momento di grande difficoltà. Nella memoria di tutti resta l'immagine della colonna di mezzi dell'esercito che da Bergamo porta in altre province una settantina di bare. È l'immagine che ha ferito lo stesso presidente della Repubblica Mattarella, che ieri sera ha chiamato il sindaco Gori. Tenete duro, ha detto il capo dello Stato, aggiungendo d'essere felice per l'annuncio del governo di inviare 300 medici nelle zone più colpite. In rapido deterioramento anche la situazione di Milano, dove i casi di infezione sono diventati 3.278, 634 in più rispetto ai 2.644 di mercoledì. La mortalità nelle province di Bergamo e Brescia raggiunge ormai picchi 3 o 4 volte superiori a quel 2-3% stimato inizialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Arriverà la luce, illuminerà l'oscurità, entrata in tutte le case, ha detto il Papa in un'intervista alla stampa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fronte politico e poi economico. Iniziamo appunto dalla politica. Una collaborazione, quella tra maggioranza ed opposizione, che prova a ripartire nonostante le polemiche degli ultimi giorni. La priorità è quella di convertire in legge il decreto Cura Italia, farlo entro i tempi parlamentari. Sullo sfondo il forte richiamo da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. Credo che entro il 1° maggio ci sarà la conversione, dice allora Radio 24 il Presidente della Camera Fico. Oggi noi dobbiamo essere tutti uniti più che mai, un'emergenza che coinvolge tutti. E più riusciamo a fare un lavoro serio, responsabile, competente e alto, più facciamo un servizio al Paese, e noi siamo semplici servitori dello Stato. Massima disponibilità alla collaborazione arriva dal centrodestra. Salvini, Meloni e Berlusconi, chiamati dal Capo dello Stato, chiedono comunque misure più forti sulle tasse. Dalla maggioranza l'impegno a fare il massimo per famiglie e imprese, ma con un avvertimento: il problema resta quello della compatibilità finanziaria e dove trovare le risorse. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Risorse economia, Ref Research rivede nettamente al ribasso la stima sulla contrazione del PIL italiano nel primo semestre a -8%. La crisi innescata dal coronavirus potrebbe essere pesantissima per l'economia italiana, almeno secondo il Ref Ricerche, che nelle ultime stime taglia drasticamente a ribasso il calo del PIL, -8% nei primi 6 mesi dell'anno contro il -1-3 stimato in precedenza. L'impatto economico dell'epidemia aumenta, sottolineano i ricercatori. La chiusura delle attività in Italia durerà più a lungo e si sta estendendo a tutti i paesi occidentali. Inoltre, ai blocchi produttivi di molte attività dei servizi si aggiunge la caduta delle attività in diversi settori dell'industria. Un rimbalzo è possibile, stima il REF, a partire dal terzo trimestre, ma l'entità del recupero resta incerta perché legata all'evoluzione dell'epidemia e alle politiche economiche. Banche centrali e governi si sono mossi con più determinazione in questi giorni e ciò, rileva l'istituto, accorcia i tempi dell'uscita dalla crisi. La BCE, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, ha varato un intervento poderoso che ha evitato la crisi dell'euro. Ora servono nuovi interventi per le imprese. Ad aprile, puntualizza Gualtieri, il governo potrà calibrare meglio gli interventi anche di ristoro in favore di chi ha subito cali di fatturato o fermo delle attività. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'anno scolastico sarà salvo in qualsiasi caso, gli studenti non devono pagare questa situazione di emergenza, così ha detto questa mattina, ha ribadito questa mattina la ministra della Istruzione Azzolina. Quanto agli esami di Stato, non posso dire come saranno, ma si terrà conto degli apprendimenti che in questi giorni stanno portando avanti gli studenti. Andiamo sul piano europeo. Via libera dei rappresentanti europei nel Coreper alla sospensione temporanea dei requisiti per gli slot negli aeroporti, che obbligano molte compagnie aeree a volare praticamente senza passeggeri in questo periodo. L'idea è sospenderli fino a fine ottobre, dopo un'intesa tra Stati membri ed Europarlamento. E però c'è anche la discussione sui corona bonds europei. Sentiamo. L'Europa lavora sulla proposta di sostegno all'ultimo bazooka messo in campo dalla BCE, conscia che non c'è più tempo da perdere per evitare i durissimi contraccolpi finanziari della crisi sanitaria. Il commissario agli affari economici Gentiloni ha detto di condividere la logica del Premier Conte sull'uso del meccanismo europeo di stabilità, ma le modalità con cui si può fare un'operazione del genere si intrecciano inevitabilmente con la questione Eurobond. Un'eventualità, quella dei Corona Bonds, che la presidente della Commissione von der Leyen non esclude. Gentiloni ha messo il dito nella piaga, sottolineando la difficoltà di alcuni nel comprendere come questa sia una crisi di tutti. Per questo ha ammesso la risposta comune europea non è ancora adeguata nonostante i passi in avanti. Questo mentre la conta delle vittime in Europa supera le 5.000, la Spagna è sempre più in emergenza con oltre 1.000 vittime e quasi 20.000 contagiati. Sale la preoccupazione anche in Germania, che in sole 24 ore ha visto crescere i casi di 3.000 unità. Con l'incremento dei contagiati, Berlino sta meditando di consentire in via eccezionale la possibilità di fare nuovi debiti per contrastare l'impatto sull'economia del coronavirus. Il totem dello Schwarz nulla sul pareggio di bilancio obbligato sarebbe così superato per cause eccezionali. La decisione lunedì. L'Austria, fin qui più reattiva dei cugini tedeschi nell'affrontare la pandemia, ha prolungato le limitazioni e gli spostamenti fino al 13 aprile. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel mondo i decessi sono arrivati a 10.000, oltre 244.000 i contagi. Negli Stati Uniti, dopo il raddoppio dei casi arrivati a 13.000, il governatore della California ha ordinato a tutti i residenti dello Stato, 40 milioni di persone, di stare a casa per contrastare la rapida diffusione dell'epidemia. Quindi da Los Angeles a San Francisco tutti in lockdown. Ma per ora è l'Europa l'epicentro della pandemia, lo sappiamo bene, con contagiati anche eccellenti e ovunque si studiano vaccini. È ormai l'Europa l'epicentro della pandemia. Sono 100.000 i casi confermati finora, con il virus che arriva a contagiare anche capi di Stato e vertici delle istituzioni, come il principe Alberto di Monaco o il negoziatore europeo per la Brexit Michel Barnier. In Spagna i contagi hanno raggiunto 17.000, il numero dei morti 1.000. A Madrid, la città più colpita, si conta ormai un morto ogni 16 minuti. In Germania, che presto potrebbe decidere di chiudere tutto, come ha detto il portavoce della Merkel, quasi 14.000 casi, ma sono solo 44 le vittime. Ci si interroga su una percentuale di morti così bassa. L'Austria ha prolungato le limitazioni agli spostamenti fino al 13 di aprile. In Francia Macron ha riunito stamattina all'Eliseo il Consiglio di Difesa. In Gran Bretagna, dove i casi sono 3.200 e i morti 144, scuole chiuse ma esercizi commerciali ancora aperti. Le autorità britanniche hanno deciso di richiamare oltre 65.000 tra medici e infermieri in pensione. Nei Balcani il numero dei contagi cresce costantemente, senza tuttavia registrare gli aumenti esponenziali e i picchi dell'Europa occidentale. In Russia i numeri ufficiali del contagio sono bassi rispetto all'Europa, 200 casi accertati, nessun decesso, anche se molti pensano che i numeri non ufficiali possano essere più alti. Il Servizio federale russo per la salute e i diritti dei consumatori ha annunciato l'inizio del test di un vaccino. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Cina intanto a Wuhan non si registra alcun contagio per il secondo giorno di fila, mentre in Corea del Sud sono tornate a scendere le positività. Nel nostro paese alle 11 tutte le radio italiane, anche Radio 24, si sono fermate per trasmettere l'inno di Mameli insieme a alcuni dei grandi successi italiani di sempre. Mi commuovo sempre quando sento il nostro inno, ma oggi di più, il messaggio di Elisabetta. E un'altra Elisabetta, ogni volta che sento l'inno mi scendono le lacrime. Secondo voi sono solo io? Ho fatto il flash mob col mio cane in giardino coi vicini. Grazie, sto meglio, ha scritto Emanuele da Pinerolo. Via SMS, via WhatsApp, sui social, gli ascoltatori di Radio 24, che questa mattina alle 11 era una radio sola, insieme a tutte le altre radio nel nostro paese, tutte all'unisono con l'inno di Mameli, ma anche con Azzurro, la canzone del sole e Volare. E se qualcuno si augura un altro flash mob radiofonico con Rossini, Verdi, Donizetti, qualcun altro ringrazia la radio di esistere. Ma Stefano confessa sorridendo: non ho cantato ad alta voce per non essere accusato di vilipendio all'inno, ma ero sul balcone a tutto volume. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine un'informazione anche di servizio per voi ascoltatori e lavoratori da casa. Netflix, YouTube, anche loro hanno accolto l'appello della Commissione Europea e hanno accettato di abbassare la qualità video per alleggerire le reti internet in tutta Europa. Con le persone che lavorano da casa, studenti che seguono le lezioni online, ma tanti che guardano video o giocano in rete in tutte le ore della giornata, internet è sotto pressione in tutta Europa. A seconda delle aree e dei provider, sono segnalati aumenti del traffico che superano in alcuni casi il 100% e si moltiplicano gli appelli ad un uso moderato di questa risorsa. 2/3 del traffico è costituita da servizi di streaming video e Netflix e YouTube coprono da sole 1/4 del mercato. Entrambe le aziende hanno accolto l'appello del commissario europeo al digitale Thierry Breton e hanno deciso di abbassare la qualità video per alleggerire le reti europee. La decisione riguarda i prossimi 30 giorni. In particolare YouTube sospende temporaneamente l'alta definizione abbassando la qualità a livello standard, mentre Netflix manterrà l'alta definizione e il 4K ma ad una qualità inferiore, che secondo l'azienda permetterà di ridurre di circa il 25% l'ammontare di banda che Netflix utilizza in Europa. L'auspicio è che altre aziende, soprattutto quelle dei videogame online, seguano questo esempio. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a questo punto ci fermiamo, abbiamo la viabilità, torniamo tra pochissimo. One Express, One Express, il pallet Express. Vi presenta. Effetto giorno. Ancora tutti voi una buona giornata, queste le principali notizie di cui abbiamo parlato nella prima parte di Effetto Giorno. Nuove misure allo studio per fermare il contagio, arriva l'esercito, ad esempio la prefettura di Milano ha annunciato che per far rispettare i divieti e i decreti entrano in campo 114 unità di militari dell'esercito di strade, dell'operazione Strade Sicure. Le vittime in Italia superano quelle cinesi e la Lombardia è sempre nell'occhio del ciclone, ma aumentano i casi al sud, ne parliamo tra pochissimo. Il Policlinico di Bari si prepara a fronteggiare l'emergenza allestendo appunto aree e reparti ad hoc. L'anno scolastico sarà salvo, sostiene comunque la ministra della Istruzione Azzolina. La crescita italiana verso un meno 8% secondo il centro ricerche REF. E poi abbiamo detto delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la cerimonia ridotta per la fiamma olimpica arrivata in Giappone, la pattuglia acrobatica ha accolto il volo speciale pervenuto dalla Grecia. Ed eccoci per l'appunto al tema di cui vi dicevo, ci si prepara a fronteggiare l'emergenza al sud Italia. I dati che abbiamo visto registrati in Puglia riferiscono di un 15% di coloro che sono rientrati in Puglia dal nord Italia con la febbre. Quindi possibili portatori di Covid-19 in Puglia e ci si prepara, ovviamente ci si deve preparare a quello che potrebbe essere il contagio in regione. In collegamento con noi c'è Giovanni Migliore, che è direttore generale dell'ospedale Policlinico Giovanni XXIII di Bari. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, intanto questi dati, diciamo, che abbiamo letto in particolare su La Repubblica di oggi, un 15% di persone con la febbre, vi tornano? Ma guardi, il governatore emiliano ha già lanciato un appello a tutti i ragazzi che sono rientrati e che si sono registrati di stare a casa. Noi ci associamo a questo appello. Purtroppo sono stati rilevati dei casi di contagi in cui i contatti sono stati documentati con ragazzi che venivano dal nord. E quindi, insomma, ovviamente diciamo forti anche purtroppo dell'esperienza che stiamo facendo al nord, voi vi state preparando. Come vi state preparando? La Regione Puglia ha disegnato un grande piano di riorganizzazione della rete di assistenza regionale, c'è una centrale di controllo che tra l'altro si avvale dell'esperienza di un noto epidemiologo, il professor Lopalco, e in questo piano il Policlinico di Bari è stato identificato come uno degli ospedali Covid. Mm. Stavo leggendo un'agenzia uscita poco fa, del, tra l'altro lei ha citato appunto il professor Lopalco, che è nel vostro, in questo caso consulente vostro, mi sembra di aver capito bene. Sì, sì, è consulente del governatore Emiliano. Che parlava di rischio di un ritorno dell'epidemia a Voe Euganeo, proprio parlando di questo caso di cui riferivamo anche noi prima, che oggi è stato riscontrato. Quindi ovviamente non è che possiamo dichiarare che è finita l'emergenza perché in un giorno o due non troviamo più contagiati, no? Immagino che questo sia da sottolineare, perché magari si prende un po' le cose alla leggera. Assolutamente no, noi raccomandiamo, così come tra l'altro in linea con tutte le disposizioni, che bisogna stare a casa. Questo è un momento molto delicato, noi in questo momento abbiamo la possibilità di diminuire la velocità dei contagi, che purtroppo comunque stanno aumentando, e l'unica maniera per diminuirli è evidentemente quella di restare assolutamente a casa, limitare i contatti e uscire esclusivamente nei casi di necessità che sono previsti. Noi al Policlinico ci stiamo riorganizzando, come le dicevo abbiamo identificato un padiglione che è il più nuovo del Policlinico, abbiamo fatto una riorganizzazione in 7 giorni molto importante, dedicando tutto il padiglione, sono 250 posti letto, all'emergenza Covid. Senta, ma lei dice appunto evitare i contatti anche in famiglia, perché se ben riportato i contatti e i primi malati sono dovuti a sono i genitori, diciamo, di questi ragazzi che sono tornati dalle università chiuse del nord, ad esempio, quindi è anche in famiglia la massima prudenza. Assolutamente sì, perché purtroppo il virus, come è noto, ha un'alta contagiosità, è una malattia ad alta diffusività, e quindi è necessario adottare tutte le precauzioni di isolamento per evitare che appunto si rischi quello che purtroppo è successo in altre regioni. Senta, noi la ringraziamo molto, ovviamente ci auguriamo che la vostra preparazione, diciamo, sia, no, superiore a quelle che saranno le necessità. È quello che io, stando in trincea con gli operatori, con i professionisti, che devo ringraziare, devo dire tutti, che hanno fatto uno sforzo veramente straordinario in 7 giorni, riconvertire completamente 250 posti letto è veramente una cosa epica. E allora sottolineo che la più grande soddisfazione sarebbe quella di aver fatto uno sforzo inutile. In questo caso sicuramente sì. In questo caso è quello che evidentemente ci auguriamo. In questo caso però quello che ci deve guidare è che noi stiamo facendo uno sforzo per assistere, e questo tutti i nostri operatori lo sanno e si sacrificano per eventualmente assistere i nostri cari. Attrezzature siete sufficientemente forniti o avete timore di non trovarne a sufficienza? Ma guardi, questo è un problema che ovviamente è noto, da questo punto di vista noi stiamo riordinando quella che è la disponibilità interna del Policlinico. Siamo riusciti ad attrezzare 50 posti letto di terapia intensiva, chiudendo delle sale operatorie e riutilizzando evidentemente apparecchiature di ventilazione che in altre condizioni venivano utilizzate per altro. Ovviamente, dico, per incrementare questo numero di posti letto, la Regione sta chiedendo e sta disegnando un piano di approvvigionamento che ci auguriamo possa svolgersi nel più breve tempo possibile, ci consentirà di allestire, così come abbiamo programmato, ben 120 posti letto di terapia intensiva al Policlinico, mentre in questo momento, ripeto, riusciamo con le nostre forze ad allestirne solo 50. Noi abbiamo tre piani di area critica in cui allochiamo questi malati intensivi in un circuito ad intensità di cura con i due piani di malattie infettive per un totale di 250 posti letto. Grazie, buon proseguimento, buoni preparativi. Grazie a voi e soprattutto restate a casa. Noi stiamo in corsia, voi restate a casa. Grazie. Giovanni Migliore, direttore generale dell'ospedale Policlinico Giovanni XXIII di Bari. A questo punto io do il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Sebastiano Favero, il presidente dell'Associazione Italiana Alpini. Allora, riprendono questi lavori per l'ospedale da campo a Bergamo, che sembravano essere stati fermati dalla regione ieri, lo chiediamo direttamente a lui. Buongiorno. Sì, direi che sono già ripresi, da stamattina, ma nella realtà noi anche nella giornata di ieri, che era quella in cui dovevamo stare fermi, ci siamo già mossi per comunque recuperare il materiale che serviva ed essere pronti a intervenire, quindi non abbiamo perso niente. Perché sembrava un po' strano questo alt dicendo non ci sono i medici, però intanto la struttura facciamola, i medici quando saranno, sì, ci saranno. Infatti io credo che questa poi era sì, la strada giusta, noi l'abbiamo percorsa, ma qui senza nessuna intenzione di polemiche, noi siamo lì per fare, per dare una mano e questo facciamo, insomma, quindi stiamo lavorando, stiamo predisponendo il tutto, io credo nel giro di qualche giorno saremo pronti. Quindi appianato insomma con la regione? Sì, nessun problema. Nessun problema, tiriamo sulle maniche e lavoriamo. E avanti, esatto. A chi sarà destinato, cioè che scopo ha specificamente per... Allora, in prima battuta con 100 posti ha lo scopo da, di essere praticamente un filtro ed essere capace quindi di accogliere diciamo tutti coloro che hanno i sintomi e che vengono verificati e controllati diciamo in fase preintensiva e speriamo che poi rimanga tale. Siamo pronti però per altri 150 posti di fase oltre che preintensiva anche semi-intensiva, che vuol dire persone che ha bisogno di ossigeno, quindi di essere intubate, ma che non ha stretto bisogno di essere in rianimazione diretta, insomma, ecco, quindi alla fine noi siamo pronti per 250 posti letto minimo. E in quanto tempo potete essere pronti a questo punto, visto che tutto è ripreso? Noi andiamo a ripresa, ma per noi il tempo massimo è una settimana. E sulla questione perché... medici è una questione che riguarda voi o che deve risolvere? No, la questione medici è una questione che riguarda direttamente l'organizzazione regionale, perché giustamente così deve essere, quindi l'organizzazione, noi qualche medico lo mettiamo a disposizione dei nostri, ma li abbiamo già messi tutti a disposizione, i nostri medici volontari sono gran parte medici che vengono dalle strutture ospedaliere, sia ovviamente della Lombardia ma anche di altre regioni. Alcuni sono in pensione, ma tutti questi si sono già resi disponibili e stanno già operando in vari ospedali, non solo della Lombardia. Quindi potete essere riferimento insomma per quanti sì, vogliano. Noi però garantiamo tutta la parte, diciamo, oltre che una piccola componente diciamo medico e paramedico, ma soprattutto tutta la parte di mantenimento, di avvio e di gestione dell'ospedale, che non è marginale, nel senso che non è che lo montiamo solo, poi siamo lì per se serve, abbiamo le nostre cucine da campo, se serve, e stiamo a controllare tutto il funzionamento di tutte le attrezzature, di tutti i macchinari, perché montiamo delle tende che sono pressurizzate proprio perché sono idonee per gli infetti e quindi devono essere tenute in pressione, per cui è tutto un controllo che abbiamo, compreso poi l'impianto di ossigenazione che viene fatto. Scusi, mi deve togliere una curiosità sulla provenienza di tutte queste attrezzature, come avete fatto? Sono nostre, l'ospedale da campo nostro ce le aveva già e ce le ha già, quindi alcune tende di grandi dimensioni arrivano direttamente dalla Protezione Civile Nazionale, di cui noi siamo una colonna mobile, per cui diciamo che sono strutture che noi abbiamo già. La ringrazio molto. Allora, buon lavoro, buon proseguimento e grazie. Il vostro impegno. Sebastiano Favero, presidente dell'Associazione Italiana Alpini. Cambiamo per un attimo argomento, pensiamo al futuro, pensiamo all'estate, pensiamo a quando sperabilmente si svolgeranno le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dario Ricci ci guida alla scoperta di uno sport, non solo di uno sport, ma di un mondo che pensa e sogna in verticale nel reportage che è in programma domenica alle 8:15, perché a Tokyo 2020 segnerà l'ingresso ufficiale, il Tokyo 2020 segnerà l'ingresso ufficiale dell'arrampicata sportiva tra le discipline olimpiche. Nel reportage di domenica alle 8:15 se ne parlerà. Al microfono di Dario Ricci, il presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Davide Battistella. I primi anni delle gare, soprattutto Bardonecchia 85, ma anche 86, poi Arco, cioè era soprattutto i primi anni, era un po' una festa. Un festival di arrampicatori, che in quel momento si arrampicava solo sulla roccia, si beveva, si suonava, e quindi era un po' un grande festival, quindi ovviamente non si percepiva dove si poteva arrivare. Poi negli anni ovviamente è diventato sempre più uno sport a tutti gli effetti, i primi campionati, le strutture artificiali, gare internazionali, una federazione internazionale che è stata probabilmente la svolta che poi è riuscita sapientemente a portare questo sport alle Olimpiadi. Saremo lì, saremo a Tokyo 2020, è veramente un grande risultato, soprattutto per il movimento essere riusciti ad arrivare a questo appuntamento. E adesso è il momento della borsa. Effetto giorno. I titoli di questa giornata: la politica sia unita, dice il presidente della Camera ai microfoni di Radio 24. Intanto ci sono nuove misure allo studio per fermare il contagio e arriva l'esercito. La prefettura di Milano ha annunciato infatti che saranno impiegate 114 unità militari dell'esercito, l'operazione Strade Sicure, perché siano rispettati regole e divieti. Le vittime in Italia intanto superano quelle cinesi, la Lombardia è sempre in una situazione critica, ma il Sud Italia, come abbiamo sentito, in particolare la Puglia, si attrezza perché c'è vento di emergenza anche là. L'anno scolastico comunque sarà salvo, ripete la ministra della istruzione. La crescita italiana economica però va verso un meno 8% secondo il centro ricerche REF. Alle 11 tutte le radio italiane si sono fermate per trasmettere insieme l'inno di Mameli e alcuni dei grandi successi italiani di sempre. E questo è il momento consueto in cui sentiamo il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. C'è un tema forse laterale alla pandemia totalizzante, ma indicativo in questa Lombardia allo stremo. Quota 100, il celebre provvedimento a durata triennale che ha mandato in pensione 250.000 persone con 62 anni di età e 38 anni di contributi, ha inciso molto nei ranghi del pubblico impiego con quasi 70.000 uscite e quindi anche nella sanità. È inutile dirlo, è stata una scommessa molto costosa in tempi di vacche magre, 5,9 miliardi solo nel 2020 e per dirla tutta 600 milioni in meno delle attese, ma ne costerà altri 7 il prossimo anno. Quota 100 ha aumentato del 24% i pensionamenti anticipati del personale sanitario, ha coinvolto 700 medici e oltre 1.000 infermieri. Vi dicono niente questi numeri? Sono più o meno i medici e gli infermieri che stiamo cercando, un po' richiamandoli in servizio e un po' chiedendo altrove. Solo il 10% però ha finora risposto al richiamo. A proposito dell'ospedale che verrà costruito alla Fiera di Milano, Matteo Salvini ha detto: cercheremo in giro per il mondo i medici che possano far partire questa struttura fondamentale. Chissà se ha mai pensato che forse li avevamo in casa se non li avessimo pensionati prima del dovuto. Così Alberto Orioli. E adesso vedo alcuni dei vostri messaggi, tra l'altro su Facebook. Alcuni si domandano se in Puglia chi è arrivato portando il virus e contagiando amici e parenti vivrà nel rimorso di essersi spostato. Beh, probabilmente sì, un po' tardi, però probabilmente sì, se ne renderà conto senz'altro. Poi ci spiegano, scrive Nicola su Facebook, perché li hanno fatti rientrare con semplici approssimative raccomandazioni. Ma c'è stato un assalto alla diligenza quella notte, più che nessuno credo abbia avuto modo di dare alcuna raccomandazione e o spiegazione. Di sicuro in questo periodo ci sono persone a rischio isolamento, e non solo ovviamente le famiglie rinchiuse in casa, ma persone che hanno già difficoltà, persone come ad esempio i disabili o i ciechi e gli ipovedenti, e proprio di loro vogliamo parlare in questo spazio. Abbiamo in collegamento con noi Mario Barbato, buongiorno. Salve, Barbuto sarebbe il nome esatto. Mi perdoni. Niente. Bacchetteremo chi me l'ha scritto, Monica. No, ha fatto benissimo perché è giusto così. Mario Barbuto, presidente Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Voi avete correttamente fatto notare che le misure di prevenzione e contenimento del virus che sono necessarie, che sono state adottate dal governo, dalle regioni, però mettono a rischio isolamento le persone con disabilità. Perché poi non ci sono più i volontari che li accompagnavano normalmente a fare una serie di operazioni che tra l'altro sarebbero operazioni consentite, come ad esempio fare la spesa, no? Certo, sicuramente l'isolamento ce l'hanno tutti in questo momento, e quindi il disagio che si vive è grande, però per queste persone che hanno già una difficoltà per la disabilità visiva, l'isolamento diventa doppio. E che cosa provoca? Appunto, innanzitutto l'impossibilità o la grande difficoltà a svolgere le funzioni quotidiane anche consentite, come giustamente lei precisava, fare la spesa. Io voglio rivolgere da qui un appello, una richiesta a tutte le grandi catene alimentari di distribuzione, non occorre che io ne faccia il nome, perché nella consegna delle spese a domicilio prevedano una corsia preferenziale, un sistema di priorità per tutte le persone con disabilità, in questo caso, per carità, quindi anche oltre il discorso dei ciechi e degli ipovedenti, perché queste persone hanno più difficoltà degli altri, molte di loro non sono neanche in condizione di poter uscire. Alcuni non sono in condizione di uscire, altri magari sono in condizione di uscire ma non di rispettare magari le distanze tra le persone, per esempio, non avendo una percezione, no, cioè non potendo vedere quanto sono distanti da qualcuno. Non solo, ma anche semplicemente facendosi accompagnare da un accompagnatore, è ovvio che per seguire un accompagnatore un minimo di contatto fisico occorre. Ci deve essere. Tenere una mano sulla spalla, sul gomito. Anzi, a questo riguardo volevo dire che l'OMS sta pubblicando, ne daremo una grande diffusione, anche perché abbiamo collaborato in parte alla redazione, un opuscolo che specificamente proprio analizza la situazione dei ciechi in questo contesto. I ciechi svolgono la maggior parte delle loro funzioni e delle loro azioni usando le mani per leggere, per esplorare, per conoscere che cosa c'è intorno, per trovare un oggetto, e quindi a maggior ragione occorre attenzione, occorrono misure, occorrono indicazioni perché queste mani siano protette per evitare la diffusione del contagio a se stessi e anche agli altri. È un problema nel problema che tuttavia dobbiamo tenere presente. Allora, una delle possibilità, lei ce l'ha detta, per esempio per quello che riguarda la spesa, se i supermercati potessero organizzare una corsia preferenziale per queste persone sarebbe ovviamente un grande aiuto. Altre, diciamo, proposte che possiamo lanciare prima di salutarci? Noi abbiamo chiesto al governo e proporremo anche degli emendamenti nel percorso di conversione del decreto in legge, ovviamente, perché i 600 euro di bonus che vengono previsti per le babysitter nel caso di persone costrette a restare a casa e che non possono invece restare a casa, questi 600 euro vengono estesi anche agli accompagnatori regolari delle persone con disabilità. Un minimo di incentivo finanziario può aiutare sicuramente a trovare accompagnatori volontari, ed è una necessità perché senza quelli si perde proprio il contatto col mondo esterno. Io la ringrazio davvero tanto e mi auguro che questo appello venga colto. Mario Barbuto, lo auguriamo anche noi, davvero, anche dei piccoli supermercati locali. Aiutate le persone che vengono a chiedervi. Certo, magari clienti che conoscete, che vengono lì da sempre, insomma, ricordatevi, esatto, che se non vengono è perché non riescono a venire probabilmente. Esatto. Grazie ancora. Grazie a voi. E a presto, a risentirci. Grazie a Radio 24. A questo punto, prima della viabilità, come vi dicevo, oggi è stata la giornata in cui la torcia olimpica è arrivata in Giappone, Tokyo 2020, cerimonia ridotta, ma sentiamo il servizio. Una cerimonia ridotta, privata, senza pubblico, presenti solo le autorità, accolta dal suono di un'orchestra nell'aeroporto deserto. Così la fiamma olimpica di Tokyo 2020 è giunta in Giappone con un volo speciale dalla Grecia, dove già l'accensione si era svolta a porte chiuse nell'antica Olimpia, oscurata dalla pandemia di coronavirus. L'atterraggio in una base militare poco dopo le ore 9:30 locali, 1:30 in Italia. Il testimone è passato a due atleti giapponesi, medaglie d'oro, e una pattuglia acrobatica tracciato nel cielo i 5 cerchi olimpici. Cancellata la cerimonia tradizionale di benvenuto della fiamma olimpica, che prevedeva la presenza di 200 bambini delle scuole elementari, ora l'invito al pubblico è di evitare assembramenti nel viaggio a tappe, che la fiamma inizierà il 26 marzo nelle 46 prefetture dell'arcipelago. Un tragitto di 121 giorni per arrivare allo stadio olimpico di Tokyo il 24 luglio, data d'inizio, tra dubbi e timori, soprattutto degli atleti, mentre il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ribadisce: sarebbe prematuro rinviare i giochi olimpici perché mancano ancora mesi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.